Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. 12 dicembre 1969, Milano. Una bomba esplode in Piazza Fontana. 17 morti, 88 feriti. 12 dicembre 1969. E mancavano 13 giorni a Natale. È quasi sera, ma Milano era illuminata a giorni, grandi magazzini, sfavillanti. C'erano migliaia di persone stipate in pochi metri tra Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Piazza San Babila, che andavano su e giù, su e giù, e osservavano le vetrine. C'erano gli zampognari, venditori di caldarosta. Ad un tratto, un forte dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, di Piazza Fontana. 7 chilogrammi di esplosivo vengono compressi dentro una cassetta metallica, poi vengono inseriti dentro una valigetta nera, tipo 24 ore, che viene collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori stanno facendo i loro affari. 12 dicembre 1969, 17 morti e quasi 100 feriti. Alle 16.37 a Milano non c'era più la TV dei ragazzi. Non c'era più la Freccia Nera né i Giochi Senza Frontiere. Non c'erano più le formazioni delle squadre, le figurine, il rock. A quell'ora noi ragazzi eravamo già vecchi. Alla fine dei miei spettacoli i più giovani mi dicono: vabbè, ma com'è andata a finire? Ma come vuoi che sia andata a finire? Tutti assolti per la strage di Piazza Fontana, tutti assolti per la strage davanti alla questura di Milano, 4 morti, tutti assolti per la strage del 28 di maggio del 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia, tutti assolti, mentre un paese stava andando al mare il 4 agosto del 1974, dentro in un treno, 19 morti, 200 feriti, tutti assolti. Non sono mai stati trovati i mandanti politici che stanno dietro alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, 85 morti e 200 feriti, oppure quell'altra, il 23 dicembre del 1984, mentre un paese voleva partire e andare a trovare un altro paese, da sud verso nord, per andare a mangiare il panettone, la sera del rapido 904, tutti assolti. Ma l'unica cosa che gli assassini, i criminali che hanno messo le bombe nel nostro paese non sono riusciti a fare è cancellare le nostre parole. Volevano portare l'orologio indietro, volevano fare un colpo di Stato, qualcuno, militare, ma non ci sono riusciti. Perché le nostre parole, la nostra memoria è stata più forte della loro violenza. E oggi, che sono passati tanti anni, come diceva Ray Bradbury in Fahrenheit 451, che vi consiglio caldamente di leggere, alla fine qualcuno ti chiederà che cosa stai facendo e tu risponderai: io sto ricordando. Daniele Biacchessi, in libreria con Il Paese della Vergogna, editore Chiare Lettere, 9,50 euro. Audio registrato il 25 novembre 2010 a Reggio Calabria. Per riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre storiacce, sia quelle del sabato che della domenica, www.radio24.it nella sezione podcast, oppure ci trovate direttamente su iTunes. Vi ricordo anche l'appuntamento speciale della settimana prossima, venerdì alle 15 a Torino al Salone del Libro, per una puntata di storiacce in compagnia del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, venerdì alle 15 al padiglione 2, stand L161. Come sempre ci trovate anche sul blog di Storiacce e sulla pagina Facebook di Storiacce. Ciao a tutti, alla settimana prossima.